la versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, come vedete state ascoltando, è un inizio un po' diverso musicalmente dal solito. Non so quanti dopo il nostro rituale di stand hanno riconosciuto la musica che intanto continua in sottofondo, spero almeno i sardi la riconoscano, è l'inno della brigata Sassari, Dimonios, ed è la brigata che la sta cantando, sfilando, è la mia maniera personalissima, scusatemi, di ricordare una persona che ieri è morta, ed è morta in una circostanza che io considero una barbarie di Stato. Lo dico a voce bassa, sono convinto di rappresentare una minoranza assolutissima. Sto parlando della morte per digiuno e astensione dal cibo e dell'acqua di Dottore Meloni, dipendentista sardo, morto in carcere, a cui ancora pochi giorni prima il pubblico ministero, anzi il giudice responsabile dell'applicazione della condanna, era condannato per non aver pagato le tasse e per averlo dichiarato pubblicamente perché disconosceva la sovranità dello Stato. E ancora pochi giorni fa il giudice responsabile delle misure applicative delle pene aveva detto no, resti in carcere. Benissimo, io credo semplicemente questo: non si tratta di condividere l'ideale di indipendentista di Dottore Meloni, non si tratta di condividere le forme colorite, a volte estreme, in cui ha condotto la sua battaglia solitaria politica. Si tratta semplicemente di credere, almeno io lo credo, che lo Stato debba sapere anche di fronte a un reo dichiarato pubblicamente, lo fa in nome della coerenza alle sue convinzioni, viola la legge fiscale, quando lo Stato gli roga la condanna, non discuto su questo, deve sapere valutare la maniera in cui questa condanna poi si applica. Tenerlo in carcere in costanza di un digiuno totale protratto fino alla morte, non sapendo distinguere l'applicazione della pena tra un incallito criminale e chi obietta in nome di ideali non condivisibili, benissimo, ma ideali, e lo fa pubblicamente, è per me inaccettabile. Dallo Stato di diritto, dalla Repubblica, credo si debba chiedere la capacità di distinguere. Non sto discutendo la pena, non sto discutendo la pena che lui stesso ha voluto andandovi incontro, proprio per sottolineare la forza delle sue convinzioni. Credo che quella pena potesse essere scontata diversamente, non sto dicendo a casa, ma di sicuro in presenza di un digiuno protratto, farlo morire è una cosa, a mio giudizio, barbara. Ecco, tutto qui. Siccome oggi parliamo di giustizia, ma volevo solitariamente rendere omaggio a questa morte di Dottore Meloni, che la terra ti sia lieve, la terra della tua Sardegna, non, ripeto, qui non si tratta di far battaglia secessionista, si tratta di sapere valutare come e a chi si applicano le pene in attuazione delle leggi vigenti. C'è chi sfida pubblicamente per opinioni ideali, c'è chi invece lo fa per proprio vantaggio criminale. Uno Stato non riesce a distinguere le due cose? Mi preoccupa molto. Allora, di cosa parliamo invece oggi? La puntata è dedicata a una vicenda che sta nelle cronache politiche, perché proprio verso la fine della mattinata, nelle primissime ore del pomeriggio, il Senato oggi ha approvato con 129 sì, 56 no e 30 astenuti i 36 articoli di riforma e potenziamento del codice antimafia. Su queste norme si è alimentata in questi ultimi tempi una polemica sostenuta da grandi nomi del diritto, da il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Flick, dal professor Sabino Cassese, dal professor Fiandaca e dal ancora stamattina su Repubblica trovate un'intervista del presidente dell'ANAC, l'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, che oggi a Repubblica proprio dice: avevo mandato una relazione di una commissione che condividevo, che era stata nominata dal Ministero, e con me c'erano giuristi come Vittorio Manes, Gerardo Colombo, Giuliana Merola della Commissione Antimafia, nella quale ad aprile, il 22 aprile, abbiamo messo per iscritto l'obiezione di fondo su uno dei punti di queste norme passate oggi al Senato, che adesso devono tornare alla Camera, ma il ministro Orlando dice approvatele così come sono, senza tener conto delle obiezioni. Più avanti si vedrà, ma è importante che intanto si eviti che la riforma cada poi con le elezioni. E queste obiezioni non sono state tenute in considerazione. Quali sono le obiezioni di Flick, di Cantone, di Fiandaca, del presidente di Confindustria Boccia di questi ultimi giorni? Sono su uno dei punti della riforma, cioè l'estensione delle misure di prevenzione, quindi misure cautelari adottate quindi dal pubblico ministero prima che si instauri un processo, quindi inaudita altra parte, di sequestri e confische previsti a oggi con l'articolo 416 bis per reati associativi tipo mafioso, camorra, 'ndrangheta, eccetera, eccetera, estendendoli anche ai reati della pubblica amministrazione. Su questo le obiezioni sollevate da Cantone, Flick, Fiandaca e tanti altri sono obiezioni radicali, cioè l'intervista per esempio resa pochi giorni fa dal professor Cassese parlava di un principio fondamentale del diritto che veniva violato e di una misura quindi che, sottraendo al processo e al confronto tra le parti misure di questo tipo, diventa un cortocircuito, un vero e proprio cortocircuito non solo dei diritti ma anche dei poteri. Ripeto, non è l'unico punto della riforma, perché le novità della riforma sono poi inerenti a tutto il regime attuale che non funziona della gestione delle imprese che sono state sequestrate negli anni alla criminalità organizzata, perché sono ben 18.000 queste imprese per un fatturato che al sequestro era di 21 miliardi con oltre 200.000 occupati. E nella riforma di oggi si introduce un cambio di competenza, viene accentrata la presenza del Consiglio rispetto al Viminale, il meccanismo di questa agenzia nazionale che dovrà dare più efficienza e trasparente alla gestione di queste imprese, che hanno alimentato anche molte indagini delle procure per le procedure nella nomina dei commissari giudiziali con favori a Palermo. Il giudice Saguto si è creato uno scandalo enorme proprio all'interno di questa gestione, poi interviene su anche altri aspetti, ma il punto di fondo su cui si sono sollevate le obiezioni è un punto di fondo radicale, per così dire, perché ha a che vedere i fondamenti del diritto. E anzi, il giudice Cantone ha un'opinione ancora più radicale, perché lui dice: è una polpetta avvelenata. Leggo testualmente della Repubblica di oggi: questa norma, cioè l'estensione della possibilità come norma cautelare di prevenzione da parte del PM prima che si instauri il processo di sequestri e commissariamenti di aziende per i reati da PA come se fossero reati mafiosi, dice questa norma, dice Cantone, è una polpetta avvelenata, perché la prima volta che dopo il sequestro dei beni a un imprenditore il magistrato sarà costretto a restituirgli tutto l'impianto delle misure di prevenzione, salterà. L'opinione del professor Cassese è ancora più radicale, cioè dice: è completamente sbagliata sin dall'inizio l'idea di trasferire alla fase delle misure di prevenzione cautelare, quindi prima del processo, ciò che solo nel processo si può determinare, perché è un vulnus fondamentale non solo dei diritti ma anche, ripeto, dell'equilibrio dei poteri. Allora, per tentare di capire la portata e l'importanza di queste obiezioni che vengono, ripeto, al di là della battaglia politica, vengono però da esponenti della magistratura e della dottrina che non sono riconducibili in alcun modo a schieramenti politici. Quindi è un punto di fondo. Il ministro ha dichiarato di non aver letto il rapporto inoltratogli ad aprile dalla commissione presieduta da Cantone, ma ha ribadito anche stamattina ciò che conta è che il potenziamento del codice antimafia, il più dell'impianto, al netto di queste obiezioni che magari regoleremo in un altro provvedimento, è stato concordato con il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Quindi noi siamo certi che dal punto di vista della magistratura queste cose sono utili e bisogna approvarle intanto così come sono. Allora, per spiegarvi meglio di che si tratta, visto che non si tratta di questioni meramente tecniche, avete sentito quanto importante è il numero poi delle aziende sequestrate e così via, abbiamo due ospiti, quindi con due punti di vista diversi. Abbiamo il presidente delle Camere Penali, Beniamino Migliucci, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera. E senatore del PD, Giorgio Pagliari, che ha seguito naturalmente il provvedimento. Buon pomeriggio, Pagliari. Grazie, buonasera. Senatore, se lei è d'accordo, io la terrei dopo le osservazioni che ci fa il presidente Migliucci, perché mi aspetto da lei che ci spieghi comunque, cioè c'è un ragionamento politico che ha fatto la maggioranza e il ministro, non è che siano stati sordi alle obiezioni, però è un ragionamento. Allora, se lei è d'accordo, la tengo per dopo, così d'accordo. Ci dà il senso complessivo della scelta. Presidente Migliucci, voi vi siete battuti contro, ma qual è la vostra opinione? Ha del tutto torto il ministro, secondo lei? Ma il fatto che noi si sia in buona compagnia conferma che ci sono delle osservazioni sicuramente importanti. Vede, l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale quest'anno ha fatto proprio un convegno sulle pene senza delitto, che sono le misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono un'anomalia tutta italiana che vengono applicate anche senza un processo e persino anche quando vi sia una sentenza di assoluzione. Ci allontanano dal giusto processo, sono delle misure che possono essere applicate senza particolari garanzie e rappresentano in molti casi, possono essere una scorciatoia rispetto appunto alle regole del processo giusto che invece dovrebbero essere seguite. Ci allontanano dalla presunzione di innocenza, sono delle misure che già in sé propongono degli interrogativi. Basta pensare che quando una persona viene proposta le misure di prevenzione a 10 giorni di termine di comparizione, a 10 giorni solo per impugnare, ha un limitatissimo diritto alla prova, quindi non riesce a difendersi provando. E tutto questo evidentemente ha provocato anche l'interesse della Grand Chambre nel procedimento di Tommaso contro Italia, che ha stigmatizzato queste misure. Quindi nel momento in cui si poneva mano a una riforma quale quella delle cosiddette leggi antimafia, bisognava stare molto attenti. Noi abbiamo rilevato invece, insieme ad altri, che c'è stata questa volontà di espandere questi strumenti di prevenzione, invece bisognerebbe andare in un senso totalmente opposto. Anche perché in questi procedimenti ci possono essere intercettazioni senza preventive, senza che vi sia una durata precostituita, le indagini di prevenzione possono durare molto a lungo, è ben vero che poi queste indagini non possono essere riversate in un procedimento penale, ma quando c'è poi una confisca, quando i beni delle persone proposte o le aziende vengono sequestrate o confiscate, si corre il rischio evidentemente di fare anche un danno rilevantissimo senza che vi sia neanche una sentenza di condanna. Le misure di prevenzione allontanano dall'accertamento di un fatto e ci avvicinano sempre di più al tipo d'autore, che è una dinamica che il diritto penale moderno vorrebbe aver dimenticato. L'idea di attribuire, di estendere anche ai reati della pubblica amministrazione queste norme che sono nate in momenti eccezionali, emergenziali, di contrasto a fenomeni criminali quali 'ndrangheta, mafia e quant'altro, evidentemente ci porta all'idea che via via si voglia contrarre quindi comprimere le garanzie che sono proprie del processo, perché magari si ritiene che il processo, quello giusto, quello normale, non produca gli stessi effetti. E ci si allontana persino dal doppio binario, che sono già delle regole sommamente ingiuste nei confronti di alcuni che siano imputati di alcuni reati, per arrivare a queste misure di prevenzione che, come ripeto, non hanno, benché vi sia un procedimento giurisdizionale, cosiddetto giurisdizionale, non hanno, sono prive di garanzie fondamentali, tanto che Franco Bricola diceva che avrebbero dovuto essere abolite. E in sintesi il giudizio generale dato dal professor Sabino Cassese, perché il professor Sabino Cassese ha detto testualmente, questo era il 30 giugno quando uscita la sua intervista sul Mattino: nel diritto penale vanno rispettati due principi, non possono esservi sanzioni speciali e le sanzioni vanno decise solo dopo regolari processi dove ci si può difendere pubblicamente. Le misure cautelari esistenti bastavano perché la specialità era quella dell'associazione di grandi reti criminali e mafiosi. Qui si cambia radicalmente l'impostazione. Questo è il giudizio del professor Cassese. Adesso andiamo al traffico, però poi dopo sentiamo il senatore Pagliari del PD per capire qual è la scelta che invece poi si è maturata ed è stata compiuta poche ore fa dal Senato oggi. A tra poco. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di queste modifiche, rafforzamento del codice antimafia che il Senato ha votato in tarda mattinata, 189 sì, 56 no, 30 astenuti, e non tenendo conto di obiezioni su un punto fondamentale, l'estensione dei poteri di prevenzione, quindi sequestro e commissariamento di imprese per reati non solo mafia, camorra, 'ndrangheta, ma contro la pubblica amministrazione, sollevati da grandi esponenti della dottrina del diritto, da magistrati, presidente emerito della Corte Costituzionale e dal presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, il PD della maggioranza ha reputato di andiamo avanti comunque. Però chi ha letto oggi Repubblica si trova per esempio un giudizio del presidente del PD Matteo Orfini, che dice: le sollecitazioni di Cantone, radicalmente contrario, come vi ho ricordato con le sue stesse parole, a questa estensione, dice Orfini, le sollecitazioni di Cantone meritano di essere approfondite. Allora, senatore Pagliari, ci spiega qual è in realtà il senso della scelta che avete fatto? Vi riservate dopo di intervenirci oppure considerate che la parte fondamentale venga prima e si vedrà col tempo se questi dubbi sono fondati? Che ci dice? Prima di tutto vorrei precisare che quando queste obiezioni sono state prese pubbliche, lascio da parte la questione Cantone Orlando, sulla quale non posso evidentemente entrare. Certo. Il procedimento legislativo era già avanzato e non consentiva più di riprendere l'articolo 1. Questo lo dico al di là del fatto che io mi permetto di non condividere quelle obiezioni. La ragione molto semplice è questa: prima di tutto non si dice che il codice antimafia, non per effetto di questa modifica, di questa riforma, punto, sì, ma ben prima prevede la assoggettazione al regime di prevenzione per circa una quarantina di altri. Verissimo. Di altri delitti, ben oltre quindi la mafia e il terrorismo. E vi faccio un esempio: l'associazione a delinquere allo scopo di commettere il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, o l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. E ci sono poi anche reati più gravi. Quindi il tema del fatto che l'ipotesi che abbiamo introdotto, su cui tornerò, allarga indebitamente il campo del codice di antimafia. Lei dice era già ben ampliato. Trova una contraddizione nell'elenco dei, non solo, ma aggiungo un altro elemento. Si dimentica nel dibattito che l'articolo 1 del codice, già da prima, prevede che siano assoggettati alle misure di prevenzione coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto abitualmente dediti a traffici delittuosi, coloro che per la condotta o il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente con i proventi di attività delittuosa, o coloro che per il loro comportamento possono mettere in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. A questi soggetti si applicano le misure di prevenzione per qualsiasi reato che essi commettano. Cioè, in base all'attuale disciplina del codice, anche il furto, se commesso, se reiterato, se sulla base degli elementi, può comportare l'applicazione delle misure di sicurezza. Quindi nessuna misura draconiana, nessuna misura specifica particolarmente punitiva. In secondo luogo, i reati di corruzione, tutti i reati contro la pubblica amministrazione, proprio nel ricorso delle ipotesi dell'articolo 1, già erano reati che potevano determinare l'applicazione del codice. Quindi lei dice, in realtà li abbiamo voluti esplicitare, ma no, erano già implicitamente nella lista precedente. Noi non l'abbiamo esplicitato, noi abbiamo introdotto una fattispecie particolare, cioè l'associazione a delinquere per commettere un reato contro la pubblica amministrazione. Ora, chi ha cognizione, consapevolezza, consuetudine con queste tematiche, sostiene che oggi l'associazione a delinquere per commettere reati contro la pubblica amministrazione è una fattispecie molto importante, molto significativa, che va combattuta. Quindi lei ci sta dicendo è una scelta consapevole, motivata e che condividete. Voglio solo spiegare che questa è un'ipotesi che si lega alla lettura delle dinamiche sociali, la logica di dal vostro punto questo, che spiega quello che poi il ministro ha ricordato e che ho già sottolineato, cioè il procuratore nazionale antimafia dice no, bene così. E voglio aggiungere un'altra considerazione, se mi permette, rispetto al Presidente delle Camere Penali, che saluto. Se il tema è la critica alle misure di prevenzione, al processo di prevenzione, come tema di politica legislativa, come mi appare... Cassese è un po' la messa così, in effetti. Che venga fuori anche dalla relazione, dall'intervento del professor Cassese e di altri. Questo è un tema che... mi permetto di dire, non può trovare l'occasione. Esatto, perché dice un tema, è un impatto generale ordinamentale, quella è una riflessione da fare. No, ma infatti ci tenevo, perché queste sono cose sulle quali non dare voce alla maggioranza se fa una scelta, non stiamo parlando di persone irresponsabili. C'è un contrasto che resta, è importante, vedremo. Intanto grazie ai nostri due ospiti, noi vi abbiamo informato. Continuate su Radio 24.